Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K. È così, la rità oggi. Aia, ma vabbè, ma non si può ridere, dai. Dai, su. Allora, una bellissima un saluto rità. Da Drago. Oh, sì. Vabbè, cosa è un dato? Saluto anche al posto fisso, Ma cosa dici? Non nostro, è un addio più che un saluto, quello che devono fare alcune operaie della Mavib di Inzago nel Milanese, ma... caro K, che sono state licenziate in quanto donne. Scusa, ma non è un programma di lavoro, lo so, però no, c'entra con la famiglia, con i bambini, con l'asilo, Madonna, perché è presa larga. No, perché l'intento dei vertici di questa azienda è comunque un intento nobile e va nella direzione auspicata dal governo e dai vari politici che si interessano della famiglia. Infatti, l'intento dei vermi dell'azienda. No, i vermi, dei vertici. Infatti quelle ex operaie adesso sono diventate mamme a tempo pieno, caro K, per la gioia dei bambini. Quindi pazienza, se senza stipendio la vita è insostenibile, la famiglia è più unita e tutto grazie ai dirigenti della Mavib. Ma va, Mavib. È certo che il mondo di oggi, con la crisi... Non puoi cominciare una frase con certo che il mondo di oggi, cioè sembra il tema delle medie. È così, il mondo di oggi, come nel tempo delle medie, è un tempo argomento delle mele, fondamentale. Non è il tempo, è il tema delle medie. Il tema il delle tempo medie. Delle mele... nel tempo delle mele si scrivevamo i temi delle medie, noi invece quelli i nostri amici tipo Carmelo Lauricella al tempo delle mele non era ancora invece, nato Claudia non so il cognome Claudia non so il cognome, un cognome che adesso ricordarmelo, comunque la ringraziamo, grazie. Comunque certo che al mondo di oggi con la crisi che minaccia anche la classe media e non solo la scuola media, con i licenziamenti indiscriminati come quello delle ragazze della Mavib e queste manovre economiche continue che vanno e vengono dal Quirinale, eccetera, è davvero questo mondo sempre più simile a una giungla. E quindi... Hai sprecato 50 secondi per dire una cosa che ti dico da anni, Drago. Il mondo è una giungla, bisogna sapersi organizzare. Un mondo in cui tutte le sicurezze vengono meno, un mondo in cui la gente non risponde più al telefono, hai notato? Sì, hanno paura. Ultimamente non si risponde più al telefono. Perché pensano che tu li chiami perché hai bisogno e questo li mette a disagio. Appunto, la gente non vuole essere perché così. Il mondo è una giungla. È un nella giungla mica ci sono i telefoni. Non so, e poi non ci si può nemmeno così aiutare tra tutti perché bisogna mettersi in salvo. È un mondo in cui i rapporti sono tutti determinati. Drago, ma è semplice. Dalla convenienza. Non ti arrampicare sui vetri. Bisogna sapersi organizzare. E infatti, io mi sono organizzato. Mi sono costruito da solo un mondo perfetto. Tutto nella mia mente. Un mondo semplice, senza angoli taglienti, un mondo smussato, ovattato, dai colori pastello. No, Drago. Un mondo al di là dello spazio e del tempo. Drago, stai parlando dell'eroina tu. Ma quale eroina, capa? È il mondo di Pushishe. Cosa? Il mondo di Pushishe. Vieni anche tu. Vieni con me nel mondo di Pushishe. Si entra in punta di piedi nel mondo più bello che c'è. Vedi che bello. Drago, ma guarda che... Anche se vedi non credi, non ci credi, ma è così. Al mondo di Pushishe. Il mondo di Pushishe. Questo è l'incubo dell'eroina. Vedi che bello. Ma come che bello? Tranquillo, Drago. Nessuna tensione. Ti fa male, guarda. Chiama il telefono. Ti fa male, cioè fa male al fegato, come prima cosa. Ti distrugge il fegato. Ma come? Il mondo di Pushishe. Ma no, non può fare male. Quello che ti porta nel mondo di Pushishe. Perché perché il mondo di Pushishe poi finisce. Cioè adesso è bellissimo. Infatti mi piace anche a me. Allora, vedi che non devi telefonare a nessuno. Non devi fare niente. Però poi finisce. Ma no, adesso non finisce. Goditi il momento, il mondo di Pushishe. Cos'è? Mi viene un po' da grattarmi. Cos'è? Non lo so, un effetto collaterale. La sensazione di aver perso i denti. Però devi stare tranquillo, perché guarda che è bellissimo. Il mondo di Pushishe. Ce l'hai? Ti spiego bene come 100 lire. No. Se mi dai 100 lire. 100 lire. Sono fuori corso. Chiedono i tossici. Sono 2 euro. 2 euro. 2. Sono 4.000 lire. Vabbè. In punta di piedi nel mondo più bello che c'è. Anche se vedi non credi al mondo di Pugliese. E ora, bambini, ricreazione! Oh, ricreazione! Adesso quindi... è il momento di One Little e di... e Two Bigs. Two Bigs, ok, eh? Dai. One allora, Little One Little, Two Bigs. One Little anch'io. No, sì, vabbè, sei dai. Tu che ci devi dare, One Little e Two Bigs. One Little for you e Two Bigs for... Esatto, for che vuol dire socio. Una Coca-Cola, insomma, una bibita che non si può fare pubblicità, esatto. E due panini. Panini. Hai capito? Panini. Panini. Questo è un po' il nostro slang. Il slang. Il grano. Vabbè, dai, bambino Alberto, ormai sei una star del video. Quale grano? Ce l'avrai i soldi, così, no? Così per quello. È così. Ma che soldi? Sono un bambino, minorenne, nessuno mi dà dei soldi. Ma tu fai, guarda che fai la fine. Qualcuno mi sfrutta. Eh no, e beh, appunto, dico, appunto, eh? Appunto. Ma chi? Lascio che vada così, chi alleggi questa... Sì, fai la fine di quei bambini prodigio della musica tipo Justin Bieber, giusto? Justin Bieber, Bieberon, Justin Bieberon. E chi è? Ma come chi è? Ma dai, ma scusa, sei un bambino appassionato di musica e non sai chi è Justin Bieber. Vabbè, ma quella è roba commerciale, i miei genitori non è che mi fanno sentire la musica della radio, eh. Commerciale. Ma no, vabbè. Loro sono rigidi. Sì. Cioè, sì. Secondo loro la musica si divide in commerciale, priva di significato, e canzone, diciamo, di impegnata, no? Canzone di movimento, di protesta. No, però scusami, queste sono cose che si dicevano 40 anni fa, sì, la musica di ovviamente, protesta, cos'è? Ovviamente loro due preferiscono la musica di protesta. Eh beh, certo. Sono quelli che protestano quando la musica è alta. Bassa la musica che è alta! Quella è la musica di protesta, che fa protestare, insomma. Ma sì, che uno si medesima nei testi, si medesima. Just shade inside girl, just shade incident babe. Ma cosa dici? Ma bambino Alberto, Incident, vabbè, non ho capito proprio. Vabbè, niente, sarà il modo in cui lui interpreta le canzoni di protesta. Quali canzoni di protesta inglesi, ti fa sentire? Inglesi. Ah, inglesi, vabbè, americane, magari quelle degli anni 60, le folk song, tipo John Baez. Penso. John Baez. Quelle sono cose di 50 anni fa, quelle, veramente. Inizio anni 60, non ho capito, si può. Dice a me. Cioè, io so solo che loro, i miei genitori, John Baez, hanno proprio una fissa, no? Sì. Ascoltano sempre il disco dal vivo in Italia. Perché dicono, pensa se noi ci fossimo stati, perché... magari ci sono e stati. E loro non sono andati. Sì. Perché lì hanno fatto... John Baez ha fatto anche la canzone C'era un ragazzo che come me, Amava i Beatles e Rolling Stone. Roba freschissima questa. Ma è sempre attuale. Per loro è attuale. Ah, per loro. E quindi loro hanno criticato aspramente... Sì. La mia cosiddetta svolta commerciale. Ah, la tua svolta commerciale proprio come artista. Sì, che loro tra l'altro aggiungono pure bieca. Cioè la mia bieca svolta commerciale. Che sarebbe, cioè, cosa? I video che fai? Che poi sta bieca, adesso me lo dovete spiegare voi. A me sembra un peggiorativo. Sì, in effetti lo è. Abbastanza. Sì. E se la prendono, perché io nelle mie canzoni affronto dei temi secondo loro. E qui sta il nocciolo che loro non capiscono. Temi disimpegnati. Tipo una canzone sul lampascione. Quella. A gente come loro, ingenua. Sì. Può sembrare una canzone decadente, no? Ma come? Quindi decadente uguale borghese. Ma queste sono le categorie proprio. È una cipolla. Sì, cos'è? Comunque c'è gente che sente una canzone, questa è decadente borghese. Ma chi dice queste cose? Vabbè, c'è un tribunale del popolo, no? Da Tito, ma bambino Alberto, cosa dici? Il tribunale del popolo, le brigate rosse. Allora, Stalin, io vi dico quello che sento a casa. Rispetto a quello che dicono i miei. Sì, però scusa, bambino Alberto, tra le tue canzoni di YouTube c'è anche Se per voi non c'è problema, che invece è proprio una canzone di protesta, quindi quella lì sì, fa. Ai tuoi dovrebbe piacere. Cosa? No, neanche perché quello. È vero che è di protesta, è verissimo. Però loro non sono d'accordo, perché secondo loro questa mia protesta è individualista. Ecco. Perché io voglio stare solo tutta l'estate a casa da solo, sì. E non andare in vacanza con loro. Secondo loro questa è una protesta consumistica, individualista. Però è sempre una protesta dell'individuo che non si occupa degli altri, no? Sì. E quindi, poi tra l'altro, essendo l'arrangiamento modestamente che non l'ho fatto io, molto curato. Sì. Quindi per loro quello è poi musica commerciale, leccata, no? Però bisogna dire che tu la canti nello stile dei CCCP, dei CSI, che erano gruppi di protesta. Sembra anche un po' i Roxette, quel duo svedese. Forse, però, allora, sti Roxette lo so che siano, ma i CCCP, quelli li conosco. Beh, certo, i tuoi... li sentivo nella culla. Che bello. E i miei genitori sono andati avanti a CCCP. Allora, nella culla. Appunto. E non avevo neanche i palloncini sopra colorati. Avevo solo, niente, il soffitto. Giovanni Lino Ferretti, che è l'andata a dire. Che adesso, sarà quello che sarà. Dovessi incontrarlo? E lo tiro sotto con la macchina. Pietà è morta. È morta la speranza. Vabbè, quindi a loro non piace, se per voi non c'è problema, nonostante sia una canzone di protesta cantata in uno stile tutto sommato a loro consono. E no, perché a loro proprio non piace, e per motivi ideologici. Quindi adesso non puoi più cantarla. No, la canto lo stesso. E se la canzone di protesta, basta che uno mi dice non va bene, non la canto, io protesto, no? Quindi la canto ancora. La canto adesso, se per voi non c'è problema, Non mi mandate al campo estivo, piuttosto mi impicco in bagno. Io sono uno che va in sbattimento quando sta in mezzo agli altri. Odio la turca, la corsa campestre, la pelle del latte stracotto. Cosa ne dite se quest'estate io resto a casa da solo? Se per voi non c'è problema, per me figurarsi neanche. Con la voce che mi trema, mamma ti prego, papà ti scongiuro, non vi faccio bene. Solo se per voi non c'è problema, per me figurarsi neanche. Con la voce che mi trema, mamma ti prego, papà ti scongiuro, non vi faccio pena. L'anguria nel frigo, un migliaio di euro. Se per voi non c'è problema, figuratevi per me. Cos'è il mondo di Pushigè? Se l'ha capito, lo scriva a chiedoasilo@radio24.it. Pushigè!